GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Trieste oltre un migliaio di studenti al corteo per la sicurezza degli edifici scolastici, la manifestazione indetta dopo la caduta di una porzione di intonaco dal soffitto nella succursale del liceo Petrarca. Quella del manutentore e installatore di impianti è una figura professionale sempre più richiesta e che anche in regione registra una carenza di professionisti, soprattutto per le industrie che operano in Friuli. Arrestato un impiegato dell'ospedale di Pordenone, grazie alle telecamere all'interno della struttura sanitaria, era stato sorpreso a rubare 6 computer e altrettanti alimentatori. Sempre più allarme e furti nel Pordenonese, dove si sono registrati diversi episodi negli ultimi giorni, non ultimo quello del tentativo di intrusione in una casa di Sacile, dove una mamma stava allattando durante la notte. La Guardia di Finanza scopre 3 lavoratori in nero alla fiera di San Nicolò di Trieste. Per i titolari degli stand previste la sospensione dell'attività e pesanti multe. Nuove figure professionali al passo con i tempi sono quelle che da 10 anni forma Life Tech Kids Academy di Trieste, istituto tecnico superiore che forma tecnici esperti di tecnologie per la salute con competenze altamente qualificate. L'accesso agli strumenti per l'informazione, soprattutto per i giovani, con le prospettive ma anche i rischi derivanti da un uso incontrollato dei social e di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, sono state al centro di un simposio organizzato a Udine dalla Fondazione Friuli. La mezzosoprano triestina Daniela Barcellona sarà la protagonista del concerto benefico Un dono di Natale, in programma stasera al Teatro Verdi di Trieste. A organizzarlo l'associazione Bambini del Danubio, cui sarà donato il ricavato finale. Le 12:32 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Beerz e Daniele Lettige per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 17 dicembre. A Trieste oltre un migliaio di studenti ha manifestato questa mattina a favore della sicurezza degli edifici scolastici dopo il recente distacco di porzioni di intonaco dal soffitto in 2 scuole, la succursale del liceo Petrarca e la scuola primaria San Giusto Martire. Il corteo cittadino è partito da Largo Sonnino e si è concluso poco fa in piazza Vittorio Veneto, creando non pochi disagi al traffico. Sentiremo comandata tra poco, ma intanto andiamo avanti con il giornale. Quella del manutentore e installatore di impianti è una figura professionale sempre più richiesta, che anche in regione registra una carenza di professionisti, soprattutto per le industrie che operano in Friuli. In Friuli Venezia Giulia, più che nel resto d'Italia, l'industria fatica a reperire 8 manutentori su 10. Ne mancano un 20% anche a colossi come Metinvest e Marcegaglia, nella zona dell'Aussacorno. Figure imprescindibili per cicli produttivi H24, ma anche tra le più dispendiose da formare. Nicola Martinis, direttore del settore manutenzione di Metinvest 3 Metal. Noi sono mesi, anni che cerchiamo delle persone per poter inserire nella nostra azienda, anche perché adesso per un turnover naturale, cioè le persone si avvicinano alla pensione. Marco Ferrone, direttore di Marcegaglia Plates SPA. Al momento non vediamo particolari mobilità da altre regioni, quindi stiamo cercando sul territorio, ma non ci sono molti ragazzi disponibili. Auspicate politiche per incentivare la mobilità di lavoratori da altri territori. La casa e quindi l'housing sociale per quanto riguarda persone che si trasferiscano in regione per poter lavorare e supportare l'azienda, questo sarebbe necessario. Ancora troppo pochi, una 15 l'anno, i diplomati sia tra i manutentori sia tra i tecnici all'ISIS della Bassa Friulana, nonostante qui si trovi lavoro subito e di solito in un raggio di 9 km da casa. Il progetto Metal 5.0 si prefigge di far conoscere agli studenti le realtà produttive e siderurgiche del territorio. Dall'anno prossimo, per aumentare le iscrizioni tra chi è più interessato a competenze pratiche, in connessione diretta col mondo del fare, partirà la sperimentazione a scuola del 4+2, il quadriennio superiore collegato ai 2 anni in ITS. Diego Munari, coordinatore del polo tecnico industriale dell'ISIS Bassa Friulana. La manutenzione, la meccanica in generale è poco gettonata dai giovani, sono attratti da altri percorsi che sono sicuramente l'informatica, che attrae molto di più. Da un punto di vista lavorativo e anche remunerativo, no, sarebbero ovviamente dei posti di lavoro sicuri. San Giorgio di Nogaro, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E spostiamoci a Trieste, dove, come abbiamo detto in apertura, oltre un migliaio di studenti ha manifestato questa mattina a favore della sicurezza degli edifici scolastici dopo il recente distacco di porzioni di intonaco dal soffitto di 2 scuole e non pochi disagi al traffico. Mi crolla il tetto addosso, mi ribello più non posso. tornano in piazza a chiedere sicurezza nelle aule e risposte urgenti dopo 3 anni di promesse inattese. Sfilano gli studenti di Trieste, scossi dal recente crollo dell'intonaco alla succursale di Via Tigor del Petrarca, che ha causato il ricovero di Alice, una studentessa, e a quello fortunatamente senza conseguenza la scuola primaria San Giusto Martire. Sono più di 1000, non solo studentesse e studenti del classico coinvolto, il Petrarca appunto, la cui succursale di Largo Sonnino è stata chiusa per consentire lavori necessari da almeno 2 decenni. Ci sono i ragazzi del Nautico, le scuole slovene, i colleghi di Oberdan, Galilei e Da Vinci, tutti insieme con un unico obiettivo. Alma Zori, rappresentante studenti Petrarca. Noi chiediamo chiarezza da parte delle istituzioni e siamo qua a manifestare per far partire un flusso che parte da questa manifestazione ma che si espanda a tutte le scuole d'Italia, perché l'edilizia è un problema che è constatabile in tantissimi istituti di praticamente tutta Italia. Maria Mastinu, rappresentante studenti Petrarca. La nostra scuola adesso in Via Tigor, che è una situazione di emergenza in sostituzione di Largo Sonnino, non è in condizioni terrificanti, nel senso che probabilmente riusciremo a tornare a scuola a gennaio, niente di questo però è totalmente sicuro. Il lungo corteo, apolitico e senza bandiere, con alcuni attivisti pro-PAL che ripetutamente gli studenti hanno cercato di allontanare, è partito da Largo Sonnino e passando per via Carducci si è concluso in piazza Vittorio Veneto, sede dell'EDR, che ha la competenza sugli edifici. Una delegazione è stata accolta dal dirigente Viola. A sfilare assieme alle studentesse e agli studenti anche la dirigente scolastica del Petrarca, Cesira Militello. È un momento di unità per la scuola, vogliamo tutti la stessa cosa e noi siamo qua per questo, insieme ai ragazzi, siamo tutti uniti. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. C'è una grande attenzione e cura da parte delle istituzioni sui minori stranieri non accompagnati, non solo perché è un obbligo stabilito dalle norme nazionali e internazionali, ma anche per la grande umanità e solidarietà che caratterizza il nostro paese da nord a sud. Lo ha affermato in una nota il garante dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, Enrico Sbriglia, a margine di un evento organizzato dall'Associazione dei tutori volontari del Friuli Venezia Giulia al Cinema Visionario di Udine. L'agire delle istituzioni e l'impegno del mondo associativo e delle comunità di accoglienza deve coinvolgere anche il privato sociale, ha evidenziato Sbriglia. Il garante ha ricordato nell'occasione l'importante ruolo svolto dai tutori volontari, ossia cittadini che si prendono carico dei minori in momenti particolarmente delicati della loro permanenza in Italia. Oggi, come in passato, il numero di tutori volontari è obiettivamente insufficiente e quindi rischia di mancare quella funzione di indirizzamento del minore che si trova senza genitori. Sbriglia ha perciò invitato tutti i cittadini a diventare tutori volontari partecipando al corso di formazione che annualmente la Regione organizza, confidando nel grande cuore e impegno che ha sempre caratterizzato la comunità del Friuli Venezia Giulia nei momenti più difficili. A cronaca, un impiegato del settore informatico dell'ospedale di Pordenone è stato arrestato sabato scorso dalla squadra mobile della polizia, che l'ha colto in flagranza mentre stava rubando 6 personal computer e altrettanti alimentatori di proprietà di ASFO. Le indagini, cominciate dal mese di novembre, hanno permesso di scoprire che erano stati perpetrati 6 episodi di furto di materiale informatico. Dopo gli accertamenti di rito, il PM ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le sue eventuali responsabilità anche per altri furti verificatisi nei mesi scorsi. È sempre più allarme furti nel Pordenonese, dove si sono registrati diversi episodi negli ultimi giorni, non ultimo quello del tentativo di intrusione in una casa di Sacile dove una mamma stava allattando durante la notte. C'è preoccupazione in diversi centri del Friuli occidentale, da Zoppola a Sacile, da Maniago ad Alzano Decimo. Decine e decine i furti in casa solo nell'ultima settimana, recrudescenza di un fenomeno che va avanti a ondate, almeno da ottobre. Agiscono di solito nel pomeriggio sera, col favore del buio, i ladri, dalle 17 alle 22. Cercano soprattutto case vuote ed evitano il contatto fisico, ben conoscendo la differenza tra furto e rapina, anche in termini di pena tra i due reati, spiegano gli investigatori. Talvolta passano al setaccio intere vie e spesso per entrare danneggiano gli infissi alla ricerca di gioielli e contanti. Tra i bersagli preferiti ci sono case con terreni agricoli da un lato e centri ben collegati con più di 9 vie di fuga. Si ritiene che in queste settimane operi più di una banda simultaneamente sul territorio. Le indagini dei carabinieri sono in corso. Agiscono con l'aiuto dei cittadini e dei comuni che forniscono loro quanto più materiale possibile a partire da foto e video. 2 auto dell'arma hanno subito incidenti stradali la settimana scorsa, per fortuna senza gravi conseguenze, proprio mentre inseguivano presunti ladri. I residenti intanto si sono organizzati a Morsano al Tagliamento, ad esempio hanno creato a giugno un gruppo di vicinato d'accordo con le istituzioni, mentre più di recente in maniera spontanea è andato un gruppo Telegram altrove, come a Zoppola sono sorti gruppi WhatsApp. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel corso di controlli svolti nell'ambito dell'annuale fiera di San Nicolò a Trieste, la Guardia di Finanza ha riscontrato la mancata emissione dello scontrino fiscale in 6 occasioni, in una delle quali è stata rilevata la mancata installazione del registratore telematico. Gli accertamenti svolti sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate per le relative sanzioni. Inoltre, presso 2 diversi stand è stata accertata la commercializzazione di prodotti pericolosi in violazione della disciplina per la tutela dei consumatori. Continua la campagna di prevenzione del fenomeno delle truffe contro gli anziani dei carabinieri di Trieste. Dopo la collaborazione con Trieste Trasporti, che ha permesso la divulgazione di spot informativi su tutti gli autobus del territorio, i militari hanno intensificato gli incontri anche in lingua slovena nelle sedi comunali e le parrocchie. Ad essi si è aggiunta l'opera di prossimità messa in atto dai comandanti di stazione e dai carabinieri di quartiere che, in questi giorni che precedono le festività natalizie, hanno preso contatto con gli esercenti in città, nei centri commerciali e nei comuni più piccoli, distribuendo capillarmente sul territorio un dépliant contenente consigli per prevenire questi reati. Tale attività ha permesso di raggiungere i primi risultati, come nel caso di 2 episodi avvenuti a Santa Croce e a Roiano, dove 2 donne di 95 e 77 anni sono state contattate telefonicamente da un uomo che, fingendosi carabiniere, riferiva di un incidente capitato ai figli e che, per evitare le conseguenze di un procedimento, le donne avrebbero dovuto pagare una somma di denaro. Tentativi di raggiro sventati dalle 2 donne chiamando il 112. Si è tenuto nei giorni scorsi il consueto incontro di fine anno con le imprese insediate nelle aree di competenza del Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso Tagliamento di San Vito. Al centro degli interventi diversi temi, a partire da quello dell'occupazione, che si attesta su numeri simili allo scorso anno. Sono 3.556 gli addetti censiti in zona industriale Ponte Rosso, che si sommano ai circa 100 occupati della zona artigianale ex Eridania a San Vito, sostanzialmente stabili anche i numeri delle aree in convenzione. La presentazione è proseguita con il dettaglio delle opere infrastrutturali previste per il triennio 2025-2027, primo fra tutti l'acquedotto a servizio della zona industriale, finanziato dalla Regione con 20 milioni di euro. In partenza nel 2025 anche il centro servizi polifunzionale, che ospiterà tra l'altro il servizio di medicina del lavoro e lo sportello per i servizi alle imprese di Confindustria Alto Adriatico. In progetto anche l'ampliamento della struttura dedicata al servizio di asilo nido, che ospita attualmente 50 bambini. Si punta ad arrivare a 70 posti. Nuove figure professionali al passo con i tempi sono quelle che da 10 anni forma il Life Tech Kids Academy di Trieste, istituto tecnico superiore che forma tecnici esperti di tecnologie per la salute con nuove competenze altamente qualificate. Compie 10 anni il Life Tech ITS Academy di Trieste, istituto tecnico superiore che forma tecnici per la salute con nuove competenze altamente qualificate. 3 i percorsi aperti. Alberto Steindler, presidente. Noi abbiamo 2 indirizzi storici, che sono il tecnico di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche e il tecnico dell'informatica medica, che da 10 anni vanno avanti. Quest'anno siamo partiti con un nuovo percorso, Biotech Quality Specialist, cioè la figura professionale che si occupa di gestione della qualità per i prodotti che hanno bisogno di forti controlli regolatori per l'immissione in commercio. Parliamo di alimenti funzionali, integratori alimentari, piuttosto che cosmetici, che per la tutela del consumatore devono essere fortemente controllati prima dell'immissione in commercio. Potenzialmente gli indirizzi potrebbero essere anche di più, le risorse ci sono, le aziende pronte ad assumere anche, paradossalmente mancano i ragazzi. Probabilmente c'è ancora una conoscenza limitata di questi percorsi che a livello europeo esistono fin dal secondo dopoguerra, in Italia sono stati introdotti relativamente di recente e probabilmente nell'immaginario delle famiglie non c'è ancora questo futuro per i propri ragazzi, che invece, e soprattutto per chi ha un'indole meno astratta, meno teorica, ma più pratica, diciamo per i ragazzi a cui piace sporcarsi le mani, è il percorso ideale. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12.44 e 30 secondi siamo al tempo. Cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, sereno sulla zona montana. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 10 gradi, a Udine 7, a Gorizia 6, a Pordenone 5 gradi e 5 decimi. A Forni di Sopra e a Piancavallo 7 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 5 e 5 decimi, a Tolmezzo 3 gradi. Sul Monte Zoncolan 10 gradi e 5 decimi, sul Monte Luzzari 9 gradi e 5 decimi, sulla costa a Grado 8, a Lignano 6 gradi. E 5 decimi. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio sulla zona montana cielo in prevalenza sereno, zero termico a 3000 metri di quota circa, inversioni termiche marcate nelle valli. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso o variabile con possibili nebbie o nubi basse, più probabili comunque su bassa pianura e costa. Possibili nebbie o nubi basse anche a Fondovalle, in Valcellina e nel Tarvisiano. Recentemente è stato siglato un patto tra Casa di Riposo a Udine per garantire una maggiore copertura di servizi a favore delle persone anziane. Sentiamo di che cosa si tratta. Sono sempre più ingenti da sostenere i costi per le case di riposo. È di fronte a questa considerazione che tre strutture del Pordenonese hanno stipulato una convenzione per mettere a fattor comune servizi e attività. La firma nel municipio di Pordenone tra Casa Lucia di Pasiano di Pordenone, la PS Solidarietà di Azzano Decimo e l'Umberto I, struttura della città. Il presidente dell'Umberto I, Antonino Di Pietro. Abbiamo una condivisione di parte del personale per alcuni servizi, quale la contabilizzazione, la presentazione del bilancio, delle buste paga. E in futuro abbiamo anche l'idea, l'avevamo accennato, di condividere l'acquisto di un armadio farmaceutico. Il tempo di alcuni infermieri non viene più dedicato alla sistemazione dei singoli medicinali, ma viene dedicato all'assistenza di coloro che sono residenti all'interno delle strutture. Ridurre le spese per le case di riposo è necessario per non gravare troppo sulle famiglie, che in diversi casi dovranno sostenere un aumento delle rette il prossimo anno. Il presidente di Casa Lucia, Luca Viotto. Il problema dei costi per le famiglie è senz'altro reale. Noi tentiamo ogni anno di tenerle più basse possibile. Vedo che però i familiari davanti ad un ottimo servizio corrispondono volentieri le rette. Cerchiamo proprio di fare queste cose per risparmiare dei soldi che ci permettano di non aumentare le rette o di aumentarle il meno possibile. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'accesso agli strumenti per l'informazione, soprattutto per i giovani con le prospettive, ma anche i rischi derivanti da un uso incontrollato dei social e di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, sono state al centro di un simposio organizzato a Udine dalla Fondazione Friuli. Il potere di informarsi e di informare sulla punta del dito. Negli ultimi 4 anni i quotidiani hanno perso il 30% di copie, va meglio per le televisioni, ma la media degli ascoltatori dei telegiornali in Italia si attesta intorno ai 66 anni. I giovani, per informarsi, sempre di più usano TikTok e Instagram. La trasformazione radicale nel modo in cui accedono alle notizie porta con sé brevità e immediatezza, piuttosto che approfondimento e riflessione. Il pericolo è naturalmente la fondatezza delle notizie. Mario Trampus, presidente del Corecom del Friuli Venezia Giulia. Verificare che tipo di informazione viene resa, qual è il messaggio che viene assorbito, che uso ne fanno i giovani, questo è un po' il problema. Su come è cambiata l'informazione tra i giovani si è parlato alla Fondazione Friuli a Udine. Uno sviluppo di una comprensione critica dei messaggi sarebbe l'unica difesa contro disinformazione o, più grave, incitamento all'odio. L'Australia vorrebbe vietare l'accesso ai social ai minori di 16 anni, questo perché i giovani preferiscono seguire le notizie date da influencer e persone comuni. L'evoluzione dell'informazione investe il campo dell'intelligenza artificiale. Davide Sciacchitano, Media Educator. ChatGPT e l'intelligenza artificiale stanno prendendo il posto di Google, Wikipedia, quindi ci immaginiamo che poter dialogare con questi chatbot e queste intelligenze artificiali sia da qui ai prossimi 3-5 anni la forma che prenderà il sopravvento. Non sappiamo ancora esattamente come, ma in modo molto repentino sta cambiando tutto. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La notizia di sport, di pallanuoto. Nell'anticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie A1 maschile, Trieste ospita questa sera al Telimar Palermo. Si gioca alla piscina Bruno Bianchi con inizio alle ore 20. Gli spettacoli, coniugare l'alto intrattenimento e la beneficenza, e questo è l'obiettivo del concerto Un dono di Natale, che si terrà stasera al Teatro Verdi di Trieste. A esibirsi la mezzosoprano triestina Daniela Barcellona. A organizzare l'evento l'associazione Bambini del Danubio, a cui sarà donato il ricavato della serata, il cui presidente è Sergio Balbinò. Sentiremo entrambi nel prossimo servizio. un concerto che è anche un regalo di Natale a chi soffre, in particolare ai bambini. Anche quest'anno la mezzosoprano Daniela Barcellona, insieme ad altri grandi artisti e giovani talenti, ha scelto di esibirsi nella sua città di origine, al Teatro Verdi di Trieste, in uno spettacolo di beneficenza. Ad attendere gli spettatori un repertorio scelto dal direttore Alessandro Vitiello, che ha come filo conduttore lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, intervallato da brani di Mozart, Rossini, Donizetti e Offenbach. È il contenitore, la suite dello Schiaccianoci, che appunto contiene tutti i regali, tutti i doni di Natale che verranno fatti da me, dal maestro Gon, da Barbara Frittoli, Riccardo Zanellato e Luis Magallanes. Nel corso della serata ogni piccolo, diciamo, intervento dello Schiaccianoci precede un brano nostro che praticamente è il dono di Natale che noi faremo al pubblico. Per il pubblico, dunque, l'opportunità di ascoltare artisti di grande talento e quella di sostenere una realtà solidale e attiva a Trieste dal 2004, l'associazione Bambini del Danubio, a cui sarà donato il ricavato della serata. Bambini del Danubio nasce con l'obiettivo di permettere cure mediche a bambini gravemente malati, quindi con patologie molto serie, appartenenti a famiglie disagiate, quindi bambini veramente poveri, e che provengono da paesi dove queste cure o non sono possibili o non sono accessibili. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E Christmas Carol Musical, il magico musical di Natale, arriva stasera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 19.30. Il famoso canto di Natale di Charles Dickens, rivisitato in versione musical, è scritto e diretto da Melina Pellicano. Le liriche sono di Marco Caselle, che ne ha curato insieme a Stefano Lori anche le musiche. Sul palco un cast artistico di oltre 20 elementi, effetti speciali, musiche originali, costumi fedeli alla tradizione ed imponenti scenografie. Un concerto che unisce il miglior repertorio gospel del Natale alle sonorità della Sinfonica Regionale, si intitola Symphonic Gospel Christmas. L'organizza la Friuli Venezia Giulia Orchestra, che si esibirà assieme all'ensemble udinese The New Voices Project alle 20.30 nella chiesa di San Francesco a Trieste. Semplicemente Maria è il titolo del concerto che si terrà questa sera nella Cattedrale di San Giusto a Trieste, dedicato alla direttrice corale Maria Susowski nel primo anniversario della scomparsa. Si esibiranno il complesso vocale e strumentale Gruppo Incontro e il coro giovanile della città di Trieste. Inizio alle 20.30. E si conclude nel segno di uno dei maggiori compositori contemporanei, Luigi Nono, il cartellone dei concerti d'autunno del Conservatorio Tartini di Trieste. Di scena questa sera la nuova produzione Apparizioni Invisibili per Luigi Nono, opera collettiva realizzata dalla Scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio, preceduta da un'introduzione all'opera di Nono, alle 20.30 nella sede del Conservatorio a Trieste. Questa sera e domani torna a Monfalcone la compagnia del Teatro dell'Elfo con due opere di Shakespeare. Si inizia oggi con il Re Lear, interpretato da Elio De Capitani. Domani sera invece in scena il Romeo e Giulietta al Teatro Comunale, inizio alle 20.45. Prima di chiudere l'informazione di servizio, l'assessorato alle politiche dell'educazione e della famiglia del Comune di Trieste informa che le domande di iscrizione al servizio integrativo scolastico per l'anno 2025-26 vanno presentate dall'8 al 31 gennaio 2025, nel periodo cioè previsto per le iscrizioni scolastiche. Le domande vanno presentate esclusivamente online sul portale iscrizioni del Comune di Trieste. E alle 12.53 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettig e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.